I disturbi alimentari, come sapete, sono il sintomo maggioritario, il sintomo psichiatrico maggioritario che esiste in Italia, quindi ha un'incidenza del 7%. Quello che possiamo dire è che facciamo uno sportello d'ascolto per il comune di Bologna e dopo la pandemia sono aumentate tantissimo le richieste che riguardano i disturbi del comportamento alimentare, perché la pandemia ha stretto le relazioni familiari di nuovo, ci si è trovati tutti in casa e questo ha scaturito nuovamente un esordio dei disturbi alimentari. Molto potente. Spettacolo di questo tipo può essere appunto utile per sensibilizzare non solo appunto chi è stato colpito da questa cosa, ma anche chi non è avvezzo a questi temi. In verità questa performance nasce proprio da un incontro tra me e Leonora in cui abbiamo chiacchierato di quanto il cibo fosse fondamentale nella nostra vita e gestisse le relazioni. Ovviamente lei è un'artista, io sono una psicanalista, per cui poi il discorso è andato sul mio lavoro, sulla psicanalisi, e ho raccontato quanto il cibo nei disturbi alimentari invece sia centrale, perché gestisce tutte le relazioni, è quello che ordina le relazioni, si decide se uscire, se non uscire, cosa fare della propria vita, quando mangiare, come andare a scuola, che merenda portarsi, come nascondersi, per cui gestisce tutte le relazioni. Infatti il progetto si chiama Relazioni perché quello che abbiamo mostrato è che le relazioni sono al centro, non il cibo. Ci può fare un identikit del giovane, della giovane che si presenta allo sportello, che chiede aiuto, lui o lei direttamente, la famiglia, quali fasce d'età sono più coinvolte? C'è stato un cambiamento recente anche nell'età di chi si presenta, di chi ha bisogno? Solitamente in studio arrivano i genitori, perché il disturbo alimentare ha questa caratteristica peculiare che allarma l'altro. La persona che ha i disturbi alimentari fa fatica a capire di avere un problema, perché in qualche modo il disturbo alimentare in verità è una soluzione. Invece nello sportello d'ascolto si viene sempre da soli, per cui non c'è un altro che ti presenta, si viene dai 18 anni in su, per cui anche questo è stato molto bello da vedere, perché i ragazzi hanno raccontato le loro fatiche, i loro disturbi alimentari in prima persona, per cui hanno capito che c'è una questione. Percentuale di maschi colpiti dai disturbi alimentari in aumento rispetto all'ultimo periodo è No, no, costante? allora i numeri rimangono più o meno costanti, nel senso che la percentuale dei disturbi alimentari nel maschile è sempre minore, sono disturbi relazionali, per cui anche questo è sempre molto interessante quanto le donne tengano al centro le relazioni, si vede in quasi tutti i sintomi del femminile, le relazioni sono sempre molto più centrali, mentre per gli uomini sono più centrali i pensieri, i propri pensieri, la difficoltà col proprio pensiero.